Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di due libri che interessano da vicino, diciamo proprio gli interessi, scusate la ripetizione, di ciascuno di noi. Il primo libro è La casa degli italiani di Massimo Bardini. Buonasera, professor Bardini. Buonasera a tutti. Massimo Bardini insegna scienza delle finanze nella facoltà di economia Marco Biagi all'Università di Modena e Reggio Emilia, e questo libro è edito dal Mulino, così come è edito dal Mulino è il libro di Alessandro Santoro. Buonasera, professor Santoro. Buonasera. Che parla di evasione fiscale, della collana Farsi un'idea, sempre del Mulino. Quanto, come e perché? Professor Santoro, allora, cominciamo da lei. L'evasione fiscale è sempre un po' all'attenzione, viene sempre evocata come la possibile soluzione dei mali della finanza italiana, ma anche come un problema che non si riesce a risolvere. Allora, indubbiamente, leggendo il libro si ha una percezione più chiara di cosa sia l'evasione fiscale in Italia. Indubbiamente possiamo cominciare col dire esiste. Sì, esiste in dimensioni notevoli, soprattutto se paragonate a quelle degli altri paesi OCSE. È però importante dire che, pur rimanendo su livelli elevati, l'evasione ha mostrato, per esempio, nell'ultimo decennio, negli ultimi 10-15 anni, delle tendenze non costanti, cioè ci sono stati dei periodi storici in cui, per quel che ne sappiamo, l'evasione è diminuita. Quindi non è una battaglia persa in partenza, certamente. Non si può pensare che sparisca da un giorno all'altro, anche perché, questo va detto, non esiste nessun paese in cui l'evasione sia nulla. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di ricondurla dai livelli patologici a cui assistiamo oggi a dei livelli fisiologici simili a quelli di altri paesi. Ecco, lei fa nel libro una panoramica anche dei 30 anni di lotta all'evasione in Italia, e come ci ha detto, l'evasione ogni tanto è un po' di più, ogni tanto un po' di meno. Quali sono gli strumenti che si sono dimostrati più efficaci nel contrastare l'evasione? I dati ci dicono che, per esempio, nella seconda metà degli anni 90 l'evasione dell'IVA è fortemente diminuita. Sono dati dell'Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate, quindi particolarmente affidabili. E probabilmente quello che è successo è stata una combinazione di fattori. Ricorderemo tutti che alla fine degli anni 90 è cambiato il modello di organizzazione dell'amministrazione, si è passati al modello imperniato sulle agenzie, si è fatto maggiore ricorso alle tecnologie informatiche, dando quindi probabilmente la sensazione al contribuente che le possibilità di incrocio dei dati fossero maggiori. Sono stati introdotti una serie di meccanismi presuntivi, rafforzati meccanismi di accertamento. È difficile dire quale di questi abbia indotto quei dati, quei cambiamenti che si sono osservati, probabilmente una combinazione di fattori. E poi, ecco, in realtà ci sono anche elementi strutturali, cioè quando l'economia si ristruttura, per esempio aumentando le dimensioni medie degli operatori, la propensione all'evasione tende a ridursi, perché l'evasione è meno costosa, è più facile dal punto di vista organizzativo nelle strutture molto molto piccole. Questo è per esempio vero nel settore della distribuzione. Quindi un insieme di fattori, alcuni dei quali manovrabili direttamente dai policy maker, altri invece che dipendono più dall'andamento del sistema economico. Ecco, per passare la parola al professor Bardini, però prima, dottor Santoro, l'evasione si dice è molto forte anche nel settore immobiliare, soprattutto nel campo degli affitti. E questo è vero, e questo da cosa deriva? Questo deriva, non credo che abbia una spiegazione diversa da quella degli altri fenomeni evasivi. Come negli altri casi, si tratta di un reddito difficile da accertare, molto diffuso, perché come sappiamo la proprietà immobiliare in Italia è molto diffusa, che si basa sostanzialmente sull'autodichiarazione e per il quale fino a tempi molto recenti le ipotesi di incrocio dei dati risultavano alquanto poco credibili. Quindi, come negli altri casi, laddove non c'è un meccanismo di ritenuta alla fonte, cioè un sostituto d'imposta come quello per i redditi da lavoro dipendente o per i redditi finanziari, quindi qualcun altro che paga le imposte per conto nostro, laddove il reddito è autodichiarato, naturalmente si crea l'occasione di evadere, e non tutti lo fanno, ma molti sì. Ecco, un capitolo del libro di Massimo Bardini, passiamo al professor Bardini, La casa degli italiani, è dedicato proprio al fisco. C'è qualche anomalia nel fisco italiano nei riguardi di come vengono viste e tassati i redditi degli immobili, professor Bardini? Sì, ce ne sono tante, direi. Una delle principali forse è il fatto che la prima casa, a differenza di quanto forse molti pensano, non è particolarmente tassata, nel senso che in altri paesi europei, come la Francia, l'Inghilterra, ma anche gli Stati Uniti, l'imposta sull'immobile, sulla prima casa, raggiunge livelli che in Italia non abbiamo mai visto, neppure con l'ICI. Ecco. Quindi da noi forse la percezione di questa forte tassazione sugli immobili è un po' distorta. La tassazione è alta soprattutto in certe fasi, ad esempio quando la casa viene venduta o acquistata, ma il possesso in sé dell'immobile non è particolarmente colpito, e questo è tanto più vero adesso dal momento che l'ICI sulla prima casa è stata abolita. Ecco, questo è importante sottolinearlo anche perché in Italia, lei lo sottolinea nel libro, c'è una delle più alte percentuali di case di proprietà, cioè le famiglie sono proprietarie di case molto più che in altri paesi. Come mai la casa degli italiani, per ricordare il titolo del libro, è soprattutto di proprietà? Ma ci sono tante ragioni. La prima è sicuramente il fatto che le famiglie preferiscono così, e ci sono anche buone ragioni per preferire la casa in proprietà rispetto all'affitto, una maggiore stabilità, una maggiore sicurezza nel tempo della collocazione della vita, delle famiglie. Una delle ragioni principali però è rappresentata anche dal fatto che le politiche pubbliche hanno incentivato in tutti questi decenni, non solo adesso ma anche nel passato, l'accesso alla proprietà delle famiglie italiane. Un'altra ragione è il fatto che il mercato dell'affitto non è mai stato particolarmente incentivato, favorito e reso efficiente. La legge dell'ecocanone del 78, ad esempio, ha praticamente distrutto questo mercato, perché proprio quando gli altri paesi europei stavano andando verso una liberalizzazione del mercato, ha introdotto vincoli molto forti che hanno convinto molti proprietari a ritirare le case dal mercato e a venderle, e molte famiglie quindi non hanno trovato una casa da affittare, hanno dovuto comprare. Questo è particolarmente negativo, cioè il fatto che il mercato dell'affitto in Italia sia molto ristretto è negativo soprattutto per i giovani e per tutte quelle forme di famiglie nuove che però sono sempre più frequenti, ad esempio le famiglie dei separati, le famiglie che si vogliono formare ma che appunto non ne riescono perché non trovano quelle tipologie abitative, diciamo, più flessibili che invece anche il mercato del lavoro spesso richiede oggi. Sì, il fatto che la casa sia di proprietà impedisce anche per, appunto, lei diceva, l'alto livello di tassazione nelle compravendite, limita la possibilità di lasciare una casa per andare in una solo un po' più grande quando la famiglia cresce, solo di spostarsi magari in qualche altra zona della città, rende un po' più rigido anche la stessa possibile mobilità delle famiglie e del lavoro. Ma si può parlare, professor Bardini, di disagio abitativo per la realtà italiana? Ma io mi sono fatto questa idea che il mercato abitativo funziona molto bene per, diciamo, il 90% delle famiglie italiane, cioè le forme di fallimento del mercato, di questo mercato specifico, non sono chiaramente così forti come, non so, nel mercato sanitario, quello dell'assicurazione o di istruzione, quindi la necessità di un intervento pubblico è chiaramente più ridotta rispetto a questi altri settori, però c'è una quota di famiglie che comunque fa fatica a trovare nel mercato privato, diciamo, la soluzione ai propri problemi, e si tratta di due tipologie di famiglie, mi sembra, quelle di cui ho già parlato, cioè i giovani che non riescono ad uscire di casa, che rimangono in casa fino a 30 anni, noi abbiamo il record assoluto in Europa per quanto riguarda la quota di 25-35 anni che rimangono a lungo nelle famiglie di origine, e penso che la limitatezza del mercato dell'affitto sia uno dei motivi, famiglie appunto di lavoratori che devono spostarsi perché hanno lavori molto flessibili, ma sono anche, e questa è una prima tipologia, quindi le famiglie nuove. L'altra tipologia è invece costituita dalle famiglie che fanno fatica a pagare l'affitto o a pagare un mutuo perché hanno un reddito molto basso, e queste ci sono in tutta Europa. In tutta Europa infatti una quota del mercato abitativo più grande di quanto non accade in Italia è servita da case gestite dal settore pubblico, certo, o direttamente dallo Stato, più frequentemente da enti locali, da enti no profit e così via. Quindi il disagio abitativo esiste, ma è limitato, diciamo, a una quota che in termini percentuali è bassa, ma in termini assoluti può essere molto alta. Certo, può essere... per chi è interessato indubbiamente diventa una cosa particolarmente importante. Sì. Un'ultima domanda, le chiedo solo una risposta flash. Non esiste in Italia un rischio di una bolla immobiliare come quella che si è verificata negli Stati Uniti e che ha provocato poi la crisi che abbiamo visto? Direi proprio di no, per molte ragioni. Una delle più importanti forse è il fatto che i redditi delle famiglie crescono molto lentamente, non c'è questa dinamica, diciamo così, positiva dell'economia che possa far sorgere delle bolle. L'altro motivo è che le famiglie italiane sono molto molto più prudenti rispetto a quelle degli altri paesi europei, per non parlare poi di quelle americane. Ad esempio solo il 10% in media delle famiglie italiane anche oggi è un mutuo, contro il 30% delle famiglie inglesi. Ecco, io chiederei una risposta rapida anche al professor Santoro sull'evasione fiscale. Sentiremo parlare ancora a lungo di evasione fiscale. Credo sicuramente di sì. Quello che per chiudere, se vogliamo, con una nota di ottimismo, quello che mi sembra di intravedere in questi ultimi tempi è che, quantomeno nelle dichiarazioni, ma anche in parte negli atti, forse si sta superando su questo argomento, quantomeno, una contrapposizione sterile tra gli schieramenti politici, e cominciamo a notare una certa continuità nei provvedimenti. Il fatto che vengano ripresi, magari dopo un po' di tempo, provvedimenti varati da governi, diciamo, di colore diverso, o vengono addirittura, come è successo nel caso delle compensazioni, resi ancora più stringenti, indica, al di là dei vantaggi e dei svantaggi delle singole misure, una continuità nella linea politica che è un elemento fondamentale nella lotta all'evasione, che appunto non è questione di un giorno o di una legislatura, ma va condotta sul medio periodo, per cui questa continuità di azione è essenziale. E anche conoscere questo tema è certamente importante, e far avere una coscienza appunto di fronte a problemi come questo, e libri come quelli che abbiamo presentato stasera sono certamente importanti per capire meglio dove va l'Italia. Li ricordo: Alessandro Santoro, L'evasione fiscale, quanto, come e perché, 120 pagine, 9,80 euro IVA compresa, ovviamente trattandosi di fisco. Massimo Baldini, La casa degli italiani, sono invece 13 euro per 220 pagine, editi entrambi dal Mulino, con due libri appunto che aiutano a comprendere la realtà. Grazie al professor Baldini, grazie al professor Santoro, grazie a quanti ci hanno ascoltato.